Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e comunque questo programma terminerà alle 21.30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, questo era il brano Retribution dei Behind Enemy Lines, che non è altro che, cioè, che noi la usiamo da mesi e mesi e mesi come sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va ora, cioè anzi che è iniziata già da qualche minuto e andrà avanti fino alle 21.30. Stiamo trasmettendo qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. E ora andiamo all'ascolto di questa band, è una band statunitense, loro sono i Godless, e questo è un loro album di esordio, uscito proprio agli inizi degli anni 90, una band esattamente di Portland, nell'Oregon, Stati Uniti, e questo è il loro album Who's in Control, e loro sono i Godless. E intanto stiamo ascoltando questa band statunitense Godless da questo loro album Who's in Control, che è datato 1993. Bene, buonasera a tutti e a tutte, anche da parte mia, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Zardins Magnetics, che vi è stata già presentata da chi mi ha preceduto, che è una trasmissione appunto che va in onda tutti i giovedì dalle 20 circa alle 21.30 in diretta sulle frequenze di Radio De Furlane da Udine, e che è riascoltabile sui podcast delle precedenti puntate. Li potete riascoltare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, e comunque noi per tutti quelli che sono interessati ridaremo questi contatti come sempre in conclusione. Un saluto particolare a chi si trova ristretto nelle galere di Via Spalato a Udine in particolare, e se riesce ad ascoltarci anche dal carcere di Tolmezzo, e a tutti i parenti eventualmente che si trovassero in ascolto, e gli affetti eccetera, gli amici. Noi questa sera vi presento un po' così la scaletta di stasera, oltre a tutti i contributi di autoproduzioni diciamo musicali, avremo interventi a voce di un compagno del coordinamento No Green Pass di Trieste, riguardo alle denunce e ai fermi e ai provvedimenti di allontanamento da Trieste che sono stati combinati appunto sabato in coda alla manifestazione partecipata da oltre 8.000 persone. E contestualmente daremo anche lettura di un comunicato che è uscito ieri, proprio ieri, un comunicato sempre del coordinamento No Green Pass di Trieste. Poi faremo un aggiornamento riguardo alla situazione repressiva di due nostri compagni e compagne che oggi avevano l'udienza in tribunale per questione appunto di repressione, e se riusciamo c'è anche una piccola lettura insieme a voi di un articolo appunto della prigioniera anarchica cilena Monica Caballero riguardo alla settimana di solidarietà con i prigionieri e prigioniere anarchiche che si svolgeva appunto nel mese di settembre. Io direi che adesso ci ascolteremo un altro bel brano e poi la parola al compagno di Trieste del coordinamento No Green Pass. Hi, I am Punk Rock Dave, your authority on any kind of punk rock music. And now we've come to the hour to play all your favorite punk rock tunes such as Offspring, Green Day, and Rancid. But first tonight, I'd like to introduce to you a new punk rock band. What the hell? This is punk rock? Gino looks like a nerd. And this Marcello, he looks like a pig-faced redneck. And this, I can't even pronounce it, Amadeus, he looks like a hippie. And who's this fatso? Pasquale. Well, let's throw this out. The sicklings. What does the world come to? Intanto stiamo ascoltando questa band partenopea, esattamente di Napoli, loro erano i Sicoids e questo era un loro album del 1997. Bene, continuiamo con l'ascolto dei Sicoids, questa band, come ho detto, di Napoli. Osborne. Ciao a tutti e a tutte, questa sera volevo esprimere qui dai microfoni di Zaldins Magnetics, da parte mia e penso anche dagli altri redattori di questo programma, la solidarietà alle persone che sono state minacciate, manganellate, fermate, denunciate, colpite da foglio di via dopo la manifestazione No Green Pass a Trieste del 6 novembre scorso, semplicemente perché si sono avvicinate a Piazza Unità. Ricordiamo che Piazza Unità, a seguito dell'ordinanza di Valenti, del oramai precedente prefetto di Trieste, Valenti, è diventata zona interdetta alle manifestazioni. Il 6 è stata, Piazza Unità è stata sequestrata in sostanza da un muro, da un muro di ferraglia e in parte di cemento, lo stesso muro che aveva recintato il Varco 4 dopo lo sgombero del porto il 18 ottobre. Ecco, finita la manifestazione, qualcuno si è avvicinato a Piazza Unità, qualche centinaio di persone, semplicemente per riprendersi forse il diritto a manifestare, forse anche semplicemente il diritto, o per chi non crede nei diritti, la libertà di muoversi. E sono state, insomma, caricate pesantemente dalla polizia, che si è accanita anche su persone che alla fine si erano semplicemente sedute a terra per protestare. 9 sono state portate in questura, da quello che si sa, e poi sono state rilasciate con una denuncia per manifestazione non autorizzata e qualcuno che veniva da fuori con fogli di via che arrivano fino a 2 anni da Trieste. Quindi, insomma, un'altra prova di forza pesante, autoritaria. Girano immagini in cui, insomma, la polizia carica queste persone a forza in macchina. Alcune persone, tra l'altro, hanno detto che non partecipavano neanche al concentramento, diciamo, davanti alle recinzioni di Piazza Unità, ma che erano lì per caso, osservavano. E immagini poi di poliziotti che minacciano chi riprende col cellulare di romperglielo, insomma, un clima pesante. Diciamo che le stanno tentando un po' tutte, no, per fermare questa mobilitazione popolare in corso a Trieste. Finora non ci sono riusciti, perché anche il corteo del 6 novembre era particolarmente partecipato, nonostante le minacce di piazza, del sindaco di piazza e della questura. La rabbia c'è tanta, nel senso che questa storia del Green Pass ha un po', l'opposizione al Green Pass ha un po' catalizzato anche una rabbia sociale e popolare più vasta. Pensiamo che, io penso almeno che in questa rabbia, in questa volontà di mobilitarsi, di lottare, di stare assieme anche per certi versi, e bisogna starci, nel senso che al di là delle contraddizioni, che comunque un movimento come questo, spontaneo, per certi versi confuso, sì, variegato nel bene e nel male, meriti la presenza di chi magari, mi riferisco magari in particolare oggi agli ascoltatori di Zaldins Magnetics, di chi porta avanti una critica, una pratica radicale verso strumenti di repressione, di controllo, verso chi in generale è attento e vuole partecipare e sostenere le lotte degli sfruttati, degli oppressi, dei lavoratori, dei proletari. Ecco, penso che in questo movimento in qualche maniera bisogna starci. Io vi parlo da Trieste, faccio parte del coordinamento No Green Pass e che bisogna insomma in qualche maniera esserci per partecipare a questa, a quello che sta avvenendo, a questa lotta popolare, anche per esercitare una funzione positiva di indirizzo, di dialogo, di egemonia con tematiche di classe, con tematiche di lotta in senso anche rivoluzionario, portando un po' dei contenuti che non siano quelli del pur non per forza disprezzabile populismo che si agita in queste piazze, non il populismo, lo sappiamo, di chi, dei manovratori, dei burattinai, di chi insomma, dei demagoghi o dei fascisti, insomma, parliamoci chiaro, ma il populismo di una protesta spontanea con cui insomma in qualche maniera penso bisogna relazionarsi. Quindi insomma, avanti la mobilitazione, solidarietà ai colpiti, da denunce, da manganellate, minacce, eccetera, eccetera. Nonostante il terrorismo dei di piazza, dei valenti, dei prefetti, dei questori, andiamo avanti nella lotta. Un saluto a tutti e a tutte. Ci stiamo ascoltando in sottofondo e comunque anche il brano appena ascoltato da questa band di Torino. Loro erano i Frammenti e questo era il loro 10 pollici L'Appeso. Thank you. Di nuovo qui in diretta, sono le, appunto, si diceva le 20:40 circa di giovedì 11 novembre, siamo in linea qui in onda con Zardis Magnetics, che potete ascoltare, lo ricordo perché prima l'ho detto, anche in streaming in tutta Italia, quindi non solo qui in Friuli. Allora, il compagno che ha parlato della situazione di Trieste, chiaro che l'ha detto lui, che parlava a nome, cioè come membro del coordinamento No Green Pass Trieste. Naturalmente lui è un redattore, diciamo un collaboratore, redattore e compagno anche dell'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione Friuli Venezia Giulia, quindi non è che noi diciamo siamo solidali in pieno a tutto quello, a tutta la, diciamo, il discorso che ha condotto lui. Siamo presenti anche noi diciamo localmente alle mobilitazioni. Questo del 6 novembre era una manifestazione diciamo a base regionale, quindi questa volta ci siamo stati anche noi, anche io personalmente, e quindi diciamo sotto, posso dire, condivido pienamente le affermazioni fatte dal compagno. Nel frattempo diciamo dopo che ha registrato questo suo contributo è uscito anche un comunicato, perché appunto qua ogni giorno un comunicato sempre del coordinamento No Green Pass di Trieste, qui ogni giorno appunto ne spunta fuori una nuova. E ieri, cioè io oggi non lo so perché non ho guardato le notizie, però di sicuro ieri è diciamo arrivata questa notizia della soppressione delle manifestazioni nei centri storici, appunto con il pretesto di questa farsa, insomma, che contribuiscono ad aumentare il contagio. Quindi il coordinamento del Green Pass di Trieste è uscito con questo comunicato, che adesso io leggerò, che trovate nel loro blog, che si chiama No Green Pass Trieste, e che magari inframmezzeremo dei brani del gruppo appunto che stavamo ascoltando prima, di cui mi sfugge adesso di nuovo il nome, che era un gruppo torinese. Comunicato 10 novembre. Sabato 6 novembre abbiamo assistito a una nuova grande manifestazione. Un riscontro di gente, di colori, di rabbia ha alimentato il primo corteo di protesta su base regionale a Trieste. Non era scontato, dato gli strumenti messi in campo per soffocare le proteste. Colpevolizzare le persone, ridicolizzarne le istanze, creare divisioni, mettere in atto una campagna d'odio, minacciare con la repressione e le ordinanze, militarizzare la città fino a farla piombare in uno stato di terrore. La scintilla che qui stiamo coltivando, però, sembra essere più forte. Ripercorrendo gli ultimi mesi, siamo testimoni di fatti inediti e straordinari per la loro forza: il clamoroso successo dei cortei che si sono susseguiti da settembre a oggi, le partecipatissime giornate di sciopero, tra cui quelle con i portuali, le assemblee tra le diverse categorie lavorative. Anziché considerare queste istanze, le istituzioni hanno preferito agitare una campagna mediatica contro chi ha deciso di utilizzare l'unico strumento in suo possesso per esprimere il dissenso: l'arma della manifestazione, della mobilitazione, della disobbedienza, della solidarietà. Ci sembra urgente prendere posizione rispetto ad alcune delle recenti critiche, per tutti quelli che c'erano e perché sappiamo di poter essere sempre di più. Il focolaio. Il 20 ottobre 2021 la provincia di Trieste entrava nelle cronache per un tasso di contagiati 5 volte superiore rispetto alla media nazionale. I dirigenti dell'azienda sanitaria dichiaravano non vi fosse alcuna correlazione con le manifestazioni, e una nota a piedi pagina rimanda al alla trasmissione Porta a Porta del non c'è la del 21 ottobre del 20 ottobre, scusate. Quindi i dirigenti d'azienda dichiaravano non vi fosse alcuna correlazione con le manifestazioni, ma che vi fosse un aumento effettivo di contagiati nelle scuole, e qui c'è un rimando invece a un servizio, credo, del TGR regionale. La colpevolizzazione dei manifestanti però divampa inspiegabilmente e il servizio di contact tracing inizia a chiedere in modo selettivo ai contagiati se avessero per caso partecipato anche occasionalmente a qualche evento no Green Pass. Il 28 ottobre si contano 6 portuali positivi, tanti quanti nel focolaio del festino di Piazza. C'è il rimando all'articolo del Piccolo del 3 novembre, e 46 positivi confermano di aver transitato per qualche iniziativa no Green Pass. Questo dato, creato anche da un contact tracing mirato, diviene la sponda sanitaria, tra virgolette sanitaria, per reprimere il dissenso attraverso una fortissima campagna mediatica culminata nella conferenza stampa regionale del 1 novembre. A poco servirà il comunicato del coordinamento, il precedente comunicato del 31 ottobre del coordinamento No Green Pass Trieste, che riporta le mappe ECDC ed enfatizza il ruolo del confine nella diffusione. Parentesi che faccio io adesso: sapete, credo si sappia, che è iniziata già da, appunto, dagli ultimi giorni di ottobre una recrudescenza stagionale dell'epidemia, ed è partita dai Balcani, anche da stati UE, comunque dell'est. La campagna continua e si retroalimenta fino a oggi. Proprio perché riteniamo che la salute, la pandemia e la scienza siano qualcosa di serio, non tolleriamo manipolazioni e rispediamo al mittente le accuse. Sono i tagli alla sanità e alla medicina territoriale, parentesi, che oggi si manifestano anche in un servizio di contact tracing regionale per l'ennesima volta allo sbando. Positività confermata dopo quasi una settimana dalla segnalazione, contatti telefonici irreperibili, servizio prenotazione tamponi di entrata e uscita, quarantena al collasso, quarantena per contatti stretti non attivate o attivate in notevole ritardo. Quindi, e non la risoluzione di problematiche basilari, qui quali il sovraffollamento delle classi, si intende della scuola, e dei trasporti, ad essere per l'ennesima volta all'origine della diffusione. La tecnica è sempre la stessa: creare un mostro per non mostrare le cause reali. Qui però non ci stiamo più, non sono le manifestazioni all'aperto le prime cause dei focolai. Ecco, allora andiamo avanti con la lettura di questo comunicato e lasciamo il brano un po' in sottofondo. Il comunicato 10 novembre del 10 novembre del coordinamento No Green Pass di Trieste. Siamo sempre su Zardins Magnetics, giovedì 11 novembre. La militarizzazione e i suoi costi. Dallo sgombero del porto di Trieste abbiamo visto un aumento ingente della presenza di mezzi e forze dell'ordine. Da Piazza Unità e i varchi del porto fino alla scenografia di guerra allestita per il recente corteo, con posti di blocco per arrivare in città. A quale scopo? Proteggere Piazza Unità, divenuta simbolo di un sindaco ormai fuori di sé, che utilizza i soldi pubblici per tenere pulita la piazza su cui si affaccia. Ma se i manifestanti ci sono è perché qualcosa hanno da dire. Oggi il sindaco chiede leggi speciali per dare una parvenza democratica a un suo capriccio dittatoriale. Noi rispondiamo che davanti alle richieste di migliaia di cittadini il minimo invece sarebbe l'ascolto. La rabbia. Quando invece al dell'ascolto si ricevono barricate, manganelli, idranti e posti di blocco, ci sembra naturale che si sviluppi nelle persone la rabbia, il sentimento di ingiustizia e la determinazione di esigere rispetto. La volontà di superare una disposizione illegittima che non permetteva di raggiungere la piazza della propria città, così come la resistenza sedendosi per terra che si sono sviluppate dopo il corteo, per noi si chiamano disobbedienza civile. La repressione. Le istituzioni locali, che hanno fatto di tutto per provocare, percorso ridotto e su vie strette, alla faccia del distanziamento, un'ordinanza secondo la quale un organizzatore deve conoscere in anticipo il numero esatto dei partecipanti alla manifestazione, militarizzazione di Piazza Unità e insulti censurabili, dovranno rendere conto. Le istituzioni dovranno rendere conto della grave violenza con la quale la polizia ha tentato di reprimere la chiassosa ma pacifica protesta avvenuta in Piazza della Borsa nelle ore successive alla conclusione del corteo. Il sindaco dei festini senza mascherina avrà di certo preferito dedicarsi alla scelta degli alberi natalizi nella sua, tra virgolette, piazza, spendendo ulteriori soldi pubblici, piuttosto che approfondire la questione, ma i filmati che girano in rete parlano di generose manganellate e aggressive intemperanze verso chi si era calcato i bordi della piazza. A chi è stato fermato e denunciato va tutta la nostra solidarietà. Scienza, cooperazione e responsabilità. Ci teniamo infine a scansare qualche equivoco. Noi siamo per la scienza, ma quella scienza che coltiva, non evita il dubbio. Quella scienza che raggiunge consensi dopo dibattiti aperti e plurali. Quella scienza che non censura. Quella scienza che riconosce l'errore e ne fa tesoro. Quella scienza che serve ad un progredire dell'uomo nel rispetto degli altri e della natura. Quella scienza non asservita al profitto. Siamo per quella scienza che ammette tranquillamente che il Green Pass non è uno strumento, virgolette, scientifico. Non siamo invece per quella scienza che è semplice arma ideologica nelle mani delle classi dirigenti, quella scienza intrisa di scientismo, quella scienza che scansa il dibattito, che accetta un unico comitato tecnico scientifico. Se è quella la scienza supportata con le firme della petizione dalla classe dirigente della città, Benussi CRT Trieste, Gialuz della Barcolana tra i promotori, a seguire D'Agostino d'autorità portuale, Di Lenarda rettore dell'università, Agrusti Confindustria Alto Adriatico, Paoletti Comer di Commercio, Riccardo Illi, eccetera, allora sicuramente non è il modello di scienza che vogliamo alimentare. Siamo per la responsabilità, per la solidarietà e per la cooperazione. Quella responsabilità che prevede cura del prossimo, a prescindere dall'obbedienza cieca a leggi ritenute insensate, come un Green Pass incoerente. Quella responsabilità popolare che fa reagire davanti all'introduzione di una nuova discriminazione nelle leggi e di un nuovo ricatto sul lavoro. Quella responsabilità che ci fa dire, se non noi, chi si opporrà a questa ingiustizia, quella cooperazione che ci ha portati in tante e in tanti, vaccinate e vaccinati, e non in piazza negli ultimi mesi. I contenuti si ampliano. Queste mobilitazioni popolari, nel chiedere la fine di un nuovo strumento discriminatorio in campo, segnalano che alla normalità non possiamo tornare. E se siamo partite e se siamo partiti dal dramma di quanti e quante senza lavoro e senza stipendio continuano a non piegarsi a misure che nulla hanno di sanitario, ora prendiamo sempre più consapevolezza dei piani autoritari e pesantemente antipopolari del governo Draghi. Coordinamento No Green Pass Trieste. questo cielo pare irriverente, nonostante tutto. Salvatore, in via straordinaria, ci porta alle celle con i letti di contenzione, 1 metro per 2, con la piccola grata per l'aria salmastra rivolta al mare, tutto attorno. Ai detenuti condannati all'ergastolo non era concesso lavorare. C'erano fazioni per lo più territoriali, spesso in lotta fratricida. Settembrini ricorda quanto fosse pericoloso passare davanti a una cella, poiché facilmente una mano ignota e armata avrebbe potuto, in qualsiasi momento, piantarsi sul fianco. Le punizioni, come una scena esemplare, venivano messe in atto sul piazzale interno, il palco centrale, agli occhi di tutti, proprio perché dal centro si vede tutto. Ciò fa sì che tutto guardi verso il centro. È lì che il detenuto è steso a bocconi sopra uno scanno e da 2 aguzzini con 2 grosse funi impiastrate di catrame e poi ammollate nell'acqua è battuto fieramente. È il comandante che prescrive il numero delle fustigazioni. Alcuni lì stanno in silenzio. Una volta finite le battute, si alzano, si battono sui pantaloni e da soli vanno verso il puntale, perché devono dimostrare di essere forti. È più quello che vedo e che sento che mi pesa sull'animo, che non la condanna. Allora, questa lettura per introdurre un po' gli aggiornamenti riguardo la situazione repressiva a cui siamo soggetti noi come Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione, era una lettura che ho tratto da Contrasto visto per censura, autoproduzione uscita con DVD allegato, con CD allegato, uscita nel 2021 a marzo, aprile, non mi ricordo. E niente, è un racconto, diciamo, di suggestioni varie all'isola di Santo Stefano vicino a Ventotene, dove era appunto c'era questa galera infame dove venivano rinchiusi gli ergastolani, diciamo già fondata dal regno dei, diciamo, preunitario napoletano, e che poi appunto il regno d'Italia si è tenuto tranquillamente, e dove poi appunto quest'isola ha continuato ad essere una galera anche fino agli anni 50, diciamo, anche con la Repubblica. Perché appunto perché ho tratto questa lettura? Perché appunto parla del, insomma, fa una da uno sguardo a quello che era, come si svolgevano le punizioni e com'era anche quella che è l'architettura, diciamo, panottica dei carceri, specialmente, insomma, di una certa epoca, e di qual era l'ideologia sottesa a questa architettura, e che comunque è un'ideologia che si è irradiata, diffusa, insomma, nei dettagli dei dispositivi repressivi, e che appunto la repressione, appunto la repressione anche, diciamo, a livello locale, il nostro, come si chiama, quello che è il nostro contraltare, adesso so definirlo in un altro modo, ha applicato a 2 nostri compagni che appunto stamattina erano a udienza per delle pubbliche, diciamo, affermazioni riguardo la situazione sanitaria. Se ricordate, erano, diciamo, 2 anni fa circa, e avevamo anche su queste frequenze dato voce a una lettera collettiva con la firma di gran maggior parte dei detenuti di Via Spalato, che appunto riguardava la situazione sanitaria. Io adesso vi leggo la dichiarazione che abbiamo fatto in strada. Stamattina eravamo davanti al distretto sanitario, abbiamo scelto appunto di riportare in strada questo problema, non scleroticamente, diciamo, portarlo davanti, insomma, altre sedi, che ci sembrava appunto questa scelta di riportare davanti al distretto sanitario, di riportare anche il senso di questa vicenda alla sua sede, diciamo, quella che secondo noi era più opportuna. Quindi era stamattina, ci troviamo qui davanti all'ingresso degli ambulatori del distretto sanitario di Udine per riportare in strada i passanti, a chi lavora qui dentro, ma soprattutto alle pazienti e ai pazienti, alle utenti, agli utenti della sanità pubblica, una questione che riguarda tutti: la sanità nel carcere. Le sbarre sono lì per impedire di vedere, ma chi è in prigione è sotto gli occhi di tutti, agli occhi di tutti, appunto. Le punizioni sono sempre esemplari per qualcuno che guarda. Oggi ci troviamo qui davanti al distretto perché questo dispositivo è stato applicato anche nei confronti di due nostri compagni che esemplarmente oggi hanno un processo in tribunale perché sono accusate di aver pubblicamente affermato le verità che tutti i detenuti di Udine sanno, cioè che chi è in prigione non riceve cure mediche adeguate. È un fatto che in via Spalato c'è sovraffollamento. La realtà carceraria del capoluogo friulano risulta al sesto posto per affollamento in Italia, con un tasso di affollamento che nei mesi passati è arrivato a toccare il 174,4%, a fronte di 90 posti. Lo scorso aprile erano detenute 158 persone. Chiuse virgolette, è una citazione dal Piccolo del 25 agosto. Si sa che in una struttura dove delle persone in qualche maniera vengono trattate, se queste persone sono in sovrannumero, il trattamento funziona male. Le persone prima o poi si ammalano, vanno curate, ma i livelli di prestazioni mediche, infermieristiche, assistenziali per i detenuti non potranno essere le stesse di quelle potenzialmente previste dalla norma. La norma appunto afferma che non deve esserci disparità di trattamento tra cittadini liberi e detenuti. Inoltre la norma afferma anche che la competenza amministrativa per eventuali disfunzionalità nell'area sanitaria delle carceri è affidata al Servizio Sanitario Nazionale. È un fatto che in via Spalato c'è sistematico abuso di somministrazione di psicofarmaci. Nel caso della morte di Ziad Kriz, avvenuta in via Spalato il 15 marzo 2020 e per la quale ci sarebbe ancora aperta un'indagine della magistratura, addirittura sono stati prescritti farmaci che possono interagire tra loro e potenziare vicendevolmente gli effetti sedatici e depressivi sul sistema centrale. Tutto questo ultimo è citazione da Udine Today del 13 luglio. Vogliamo qui aggiungere, chiaro e tondo, che per noi le autorità non garantiranno mai la verità sulla morte di qualcuno dentro un carcere, ma produrranno giudizi tali da proteggere i loro dipendenti dalle conseguenze del loro operare nefasto. La responsabilità di questi fatti di chi sono? Le responsabilità di chi sono? Di chi è la responsabilità se non solo i detenuti si ammalano perché magari si trovano rinchiusi in carcere, perché sono reietti della società e la loro salute è precaria, ma si ammalano ancora di più perché le cure mediche sono approssimative, superficiali o addirittura errate? L'accusa rivolta ai nostri due compagni, oggi chiamati in tribunale, sarebbe dunque in realtà quella di aver osato andare oltre la sterile libertà di indignarsi e aver rivendicato la libertà anche per coloro ai quali lo Stato ribadisce attraverso il carcere di essere dei perdenti, delle macchine guaste da sostituire, di aver rivendicato quindi ai prigionieri la loro libertà di lottare per le proprie condizioni di vita, per la propria salute, per la propria dignità. Quello che è un gesto di riconoscimento, di sintonia nella comune lotta contro chi, nel menefreghismo, con la violenza sottile mascherata nelle procedure, nei ruoli di pubblico servizio, intende, senza dichiararlo, fare la guerra ai reietti, ai refrattari, ai ribelli della società, del patriarcato e del capitale, quel gesto viene addomesticato, sminuito, trasformato in una fattispecie, ricondotto a un comportamento scorretto e isolato dalla società, dal consenso imposto con la minaccia penale e col ricatto economico. Nel nostro piccolo, anche qui, cioè qui davanti al distretto, oggi, stamattina, cioè, siamo solidali ai nostri compagni chiamati in tribunale e con loro siamo al fianco di chi si ribella e lotta per la propria dignità nelle prigioni qui vicino, così come siamo al fianco dei nostri compagni che in altre galere si trovano rinchiusi perché hanno lottato per distruggerle. Continueremo a dire quello che pensiamo e soprattutto a praticare l'appoggio e la solidarietà a chi si ribella lottando contro il carcere e resistendo alla repressione. Udine, Trieste, 11 novembre 2021, assemblea permanente contro il carcere e la repressione. That's all for all! And now we have to stop both of them! This is the safety of your people! Even if you are the Lord! Akibu, Akibu Sotero! Akibu Sotero! Mentre lascio in sottofondo questo brano, volevo ricordare che prima, durante l'intervento in cui era venuta la lettura del comunicato del No Green No Green Pass Trieste, abbiamo ascoltato i Frammenti, che era una band di Torino, dal loro 10 pollici datato 1997, si intitolava L'Appeso. Ora invece stiamo ascoltando questa band inglese, i Jesus Brazier, che non è altro che uno split uscito nel 2010, un album split assieme ad un'altra band inglese, i Warcoma. Ecco, allora siamo in dirittura di arrivo per questa puntata dell'11 novembre di Zardins Magnetics, che come avevamo promesso nel sommario, adesso ci dovrebbe stare un approfondimento, diciamo, sulla settimana di solidarietà anarchica con i prigionieri anarchici, e che però mi sono accorto che è un po' sforato con il minutaggio. E quindi, come promesso, do lettura di questo articolo di Monica Cavallero e prometto che, insomma, tornerò in futuro meglio su questa tematica, diciamo, con altre anche letture, contributi, considerazioni, eccetera. Quindi, adesso appunto vado alla lettura di questo contributo della compagna Monica Cavallero, e che, se non sbaglio, si trova ancora in chiusa in Eh sì, certo, in Cile, presso San Miguel, in Cile, diciamo, il centro prision preventiva, e il cui contributo potete trovare nel quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivni, e precisamente il numero era quello di numero 15 del 27 settembre. Dunque è passata qualche settimana e appunto adesso ve lo leggo senza tanto badare a varie incisi, cose, dettagli che non c'è molto tempo. Parole per la settimana di solidarietà con i prigionieri e le prigioniere anarchiche e anarchici. In questa settimana si compiono 8 anni da quando diversi gruppi della Croce Nera Anarchica e diverse individualità nel mondo hanno fatto partire l'iniziativa di dedicare una settimana di solidarietà internazionale con gli anarchici e le anarchiche incarcerati, facendo coincidere questa settimana con il giorno in cui si commemora l'anniversario dell'assassinio legale degli anarchici Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco da parte del governo statunitense nell'anno 1927. La storia ufficiale, scritta dai potenti, dalle potenti, dalla sinistra democratica, progressista e da una parte dell'anarchismo, si è preoccupata, in modo particolare, di creare un'immagine vittimista di Sacco e Vanzetti, lontana da qualsiasi pratica illegalista. Tutto questo cementato dal riconoscimento da parte dell'apparato giudiziario nordamericano del fatto che all'interno del processo penale che condannò Sacco e Vanzetti ci fossero state numerose irregolarità e che fossero, virgolette, innocenti da un punto di vista giuridico, parentesi, informazione riconosciuta molti anni dopo l'assassinio dei compagni. Probabilmente i compagni non hanno avuto nessuna relazione con l'esproprio di South Braintree. E questo è importante da dire e da sapere, come è importante sottolineare che Sacco e Vanzetti sono stati anarchici d'azione che propagandarono le idee antiautoritarie e portarono avanti numerose pratiche illegaliste. Nel territorio che chiamiamo Stati Uniti, nei primi anni del Novecento, esistevano diversi gruppi informali anarchici che si dedicavano agli espropri e alla diffusione di idee di lotta contro il dominio. Nicola e Bartolomeo parteciparono attivamente a uno di questi gruppi, in particolare quello che gravitava intorno al giornale Cronaca Sovversiva. Questi ultimi elementi sono stati omessi dalla, virgolette, storia ufficiale, come è stata prestata particolare attenzione a non ricordare la solidarietà internazionale che hanno avuto i compagni durante il 1927. Non sono state poche le manifestazioni di condanna del processo politico-giuridico-poliziesco in diversi luoghi, come non sono mancate le esplosioni in nome di Sacco e Vanzetti. Una delle più note è quella che ha distrutto il consolato italiano di Buenos Aires. Non è casuale che coloro che sostengono il potere e i suoi falsi critici usino e truchino la storia relazionata con Sacco e Vanzetti. Ovviamente non è la prima volta e non sarà l'ultima. Gli apparati repressivi dello Stato infrangono la loro stessa legalità costantemente, creano montaggi, stuprano, torturano, è un lungo eccetera eccetera. Queste pratiche, per noi che ci posizioniamo come nemici e nemiche dell'egemonia del potere, non dovrebbero stupire. Avere fiducia nella legalità democratica dello Stato non è parte della mia costruzione politica. Non per questo pretendo che si accolgano come naturali i soprusi che ogni giorno portano avanti i poteri dello Stato. Far notare qualcosa non è la stessa cosa che presentarsi come vittime. Una settimana di solidarietà specifica con le prigioniere e i prigionieri anarchici è per me un'occasione per portare alla luce quello che succede dietro le alte mura. Il carcere è per me un altro terreno di scontro che si sente nelle cose più piccole e quotidiane. Ho messo piede in prigione per la prima volta molto tempo fa, Da quel momento in nessuna occasione ho smesso di sentire la solidarietà delle mie compagne e dei miei compagni. Questa solidarietà l'ho vista in un abbraccio fraterno e in una splendida luce sediziosa nell'incendio di qualche icona del potere. A 94 anni dall'assassinio legale degli anarchici Sacco e Vanzetti, nulla è dimenticato. Chi lotta contro il potere non si dimentica. Monica Caballero. Quindi siamo in veramente agli sgoccioli di questa puntata di Zardins Magnetics. Io rispetto alla lettura che ho appena eseguito, diciamo, voglio ricordare appunto che Il quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivni l'ho trovato in distribuzione, diciamo, richiedendolo a noi dell'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione, e, se vi interessa, come anche altre pubblicazioni, altri opuscoli che potete richiederci, diciamo, sono disponibili. Mettetevi in contatto usando o la mail, che la nostra mail è liberetutti@autistiche.org, altrimenti il recapito postale per chi è ristretto nelle sue libertà, che si trova agli arresti, si trova in prigione ed è in ascolto, può scriverci appunto recapito postale indirizzando all'associazione Senza Sbarre, alla casella postale 129 34121 Trieste. Ripeto più lentamente adesso: associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34121 Trieste. Diciamo che questi sono i nostri contatti. Poi c'è la possibilità, ovviamente in streaming ci potete ascoltare in diretta in tutta Italia, in, diciamo, via etere ci state ascoltando nella zona, diciamo, del Friuli non montano, diciamo, e ultima possibilità è quella del podcast, cioè riascoltare quando ne avete tempo, possibilità, via appunto sempre web. Abbiamo un blog che è Zardins Magnetics Radio .noblogs.org, ma diciamo, inserendo in un motore di ricerca la parola Zardins Magnetics, credo che vi compare solo questo blog qua, ecco, e quindi è abbastanza semplice. Io per questa sera direi che può bastare, con le chiacchiere. Vi mando un caro abbraccio e vi saluto e ci sentiamo appunto prossimamente. Adesso la linea, diciamo, è alla regia per saluti e per presentarvi i brani dei gruppi che abbiamo ascoltato, che sono, ricordiamolo, sono sempre gruppi autoprodotti, quindi che vivono, diciamo, l'esperienza del fare musica in una maniera precisa, diciamo, non puramente così, dedicandosi al, non so, come un passatempo, musica come passatempo, ancora peggio, come mercificazione. Di nuovo un saluto e linea alla regia, ci sentiamo prossimamente. Bene, siamo proprio al termine di questa trasmissione, come già appunto già detto abbondantemente, che siamo in diretta radiofonica e il programma Zardins Magnetics, e quindi ogni giovedì dalle ore 20 circa alle 21:30, e quindi vi dico che gli ultimi brani che abbiamo ascoltato fanno parte di questa band inglese, gli Jesus Brazier, che non è altro che un lato di questo album 12 pollici, perché è uno split, è condiviso assieme ad un'altra band inglese, i Warcoma, ed è un album uscito nel 2010. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.